Sono le 13. GR24, il sole 24 ore. Asta da 11 miliardi e mezzo di botte, rendimenti in forte rialzo, borse oggi in rosso, Berlusconi non credo che la manovra economica cambierà, il decreto approda intanto alla Camera. L'Unione Europea avverte i paesi in difficoltà a consolidare i risultati sui conti pubblici all'Italia se necessario, nuove misure di risparmio su Atene, nessuna ipotesi di default. Kenya esplode un oleodotto vicino ad una bidonville, oltre 100 morti. Via l'anno scolastico per 8 milioni di studenti, oggi protesta davanti al Ministero dell'Istruzione. Buongiorno da Alessio Maurizi e dalla redazione. Dunque, nuove tensioni sui mercati finanziari in Europa che derivano ancora una volta dalla crisi dei debiti degli stati in difficoltà nel mirino degli investitori, in particolare la Grecia che ha presentato ieri nuove misure antidebito, mentre oggi il Ministero dell'Economia tedesco ha precisato, dopo le indiscrezioni del fine settimana, che Berlino non vuole Atene fuori dall'euro. Una precisazione in tal senso è arrivata poco fa anche da Bruxelles. La Commissione europea non sta lavorando su una ipotesi di default della Grecia. Per quanto riguarda invece l'Italia, le notizie sono quelle dell'asta dei bot con i rendimenti in netto rialzo e la manovra che oggi si incardina alla Camera con le dichiarazioni di Berlusconi. Ma facciamo il punto e iniziamo ancora una volta dai mercati finanziari turbolenti. Deborah Rosciani, buongiorno. Sì, buongiorno Alessio. Devo dire che le rassicurazioni tedesche sul possibile piano che sarebbe allo studio appunto in Germania per un'uscita pilotata della Grecia dall'euro non hanno confortato per niente il mercato, che è ancora in profondo rosso. La peggior piazza oggi è Parigi, perde il 4,88%, Francoforte meno 3,48%, Londra un po' meglio meno 2,32% e Milano meno 4 punti. Nella bufera, letteralmente nella bufera, i titoli del settore bancario, in particolar modo i francesi, perdono tutti oltre il 10%, Crédit Agricole, Société Générale e BNP Paribas. Sulla scia del possibile downgrade in arrivo da parte di Moody's, preannunciato da mesi, potrebbe arrivare già questa settimana. E questo perché le banche francesi hanno in pancia molti titoli di Stato greci. In piazza affari i titoli che vanno peggio sono anche in questo caso i bancari. Oggi un nuovo scivolone pesantissimo per Unicredit, meno 8,96, Intesa meno 7%, e questi sono in assoluto i peggiori, insieme a Fondiaria che perde il 7%. Però, come dicevi tu prima, il focus oggi era totalmente orientato alla valutazione dell'asta del tesoro di questa mattina, asta per 11 miliardi e mezzo, in realtà due aste, una per titoli a tre mesi che non si svolgeva più dal marzo scorso e una per titoli a 12 mesi, quindi bot a un anno. Come sono andati? Per la tranche ad un anno, quella più corposa era 7 miliardi e mezzo, il tasso medio è balzato dal 4 al 4,15% dal 2,95 dell'emissione di agosto. Per la tranche a tre mesi, da 4 miliardi, il tasso medio è salito all'1,90 dall'1,03 dell'asta di marzo. Quindi il mercato chiede un riconoscimento, una remunerazione molto alta all'Italia per poter comprare titoli di Stato. Peraltro, per il buon annuale si è tornati sopra la soglia del 4% per la prima volta dal settembre del 2008, quindi un'altra giornata di forte tensione e l'euro è sotto 1,36 sul dollaro. Alessio. Grazie Deborah Rosciani. Intanto per quanto riguarda l'Italia c'è da dire che la manovra approda oggi alla Camera per il passaggio definitivo, un passaggio importante. Oggi il Presidente del Consiglio Berlusconi è tornato a garantire sul voto entro metà settimana. Ma iniziamo dal calendario della Camera, Vincenzo Miglietta. Sì, buongiorno. Tempi stretti qui a Montecitorio per la conversione definitiva in legge del decreto di correzione dei conti pubblici. Nel pomeriggio il provvedimento sarà in aula. Governo e maggioranza puntano a chiudere la partita entro mercoledì. Il ricorso alla fiducia appare dunque scontato. Il calendario definitivo sarà messo a punto domani dalla capigruppo convocata per le 10:30. Non ci saranno cambiamenti al testo, hanno assicurato il Presidente del Consiglio Berlusconi e il Ministro della Difesa La Russa. Precisazione che si è resa necessaria dopo la voce circolata in ambienti del PDL sulla volontà di intervenire intervenire ulteriormente sulle pensioni, ma anche sui costi della politica, con l'eventuale ritorno alla formulazione originale dei tagli ai parlamentari dopo lo sconto fatto dal maxi emendamento. Fatti questi però che obbligherebbero ad un terzo passaggio parlamentare in Senato, ipotesi in contrasto con l'assoluta necessità che la manovra diventi operativa in tempi rapidissimi proprio per rassicurare i mercati internazionali. La priorità che resta in agenda a questo punto è il tema della crescita. Dopo la manovra vi sarà un focus sullo sviluppo, ha fatto sapere il ministro dell'economia Tremonti, una risposta al pressing di industriali e sindacati. E da Roma è tutto. Grazie Vincenzo Miglietta. Intanto, come dicevamo, le dichiarazioni di Berlusconi: non credo che la manovra cambierà, non c'è spazio. Così oggi il Presidente del Consiglio a Mattino 5 ha anche spiegato i motivi del rinvio dell'incontro con i PM napoletani che indagano sul caso Tarantini La Vitola. Silvio Berlusconi replica agli attacchi dell'opposizione sulla sua trasferta a Bruxelles e Strasburgo, nega che sia stata programmata per evitare il faccia a faccia con i giudici di Napoli che indagano sul presunto ricatto ai suoi danni. Gli incontri di domani, spiega il Premier intervistato a Mattino 5, serviranno ad illustrare la manovra ai vertici delle istituzioni europee. Grazie al comportamento della nostra opposizione e dei suoi giornali si è creata intorno alla nostra manovra molta confusione e ho ritenuto che fosse urgente che io mi recassi a Bruxelles e a Strasburgo per spiegare carte alla mano la vera situazione di questa manovra, che verrà varata con il voto della Camera questa settimana, probabilmente entro mercoledì. Non ho nessun timore di incontrare i giudici, ho solo aiutato una famiglia in difficoltà, aggiunge poi Berlusconi parlando dell'inchiesta che coinvolge La Vitola e Tarantini. Vuole che io abbia timore di andare a incontrare dei magistrati per un caso nel quale ho solo aiutato una famiglia in difficoltà, come ho fatto tante volte. Ora, non credo davvero che sia un reato aiutare chi ha bisogno. Quanto infine alla situazione all'interno del Popolo delle Libertà, Berlusconi anticipa che per il partito a fine settembre inizierà una stagione congressuale. Andrea Viali, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma. L'Italia deve essere pronta a prendere misure aggiuntive qualora le entrate derivanti dal fisco siano minore di quanto previsto se vi fossero difficoltà a tagliare la spesa come stabilite, quanto rilevato dal rapporto 2011 della Commissione europea. Andiamo a Bruxelles con Antonio Poglio Salimbeni, buongiorno. Sì, buongiorno a voi. Allora, queste anticipazioni del rapporto sui conti pubblici che riguardano anche l'Italia, si dice che bisognerà forse ancora intervenire. Poi ci sono anche parole sulla Grecia, si esclude che la Commissione lavori su un'ipotesi di default. Antonio. Esattamente, sì, la posizione espressa oggi, che coinvolge anche l'Italia, riguarda anche tutti i paesi che si sono impegnati a ridurre il deficit pubblico in tempi forzati, molto rapidi. Per quanto riguarda l'Italia, il pareggio di bilancio nel 2013, in presenza di buchi rispetto alle esigenze di riduzione sulle quali si è impegnato, è chiaro che l'Italia, come gli altri paesi, devono essere pronti a intervenire per assicurare il target, l'obiettivo. Quanto alla Grecia, la Commissione è abbastanza in difficoltà in queste ore, in questi giorni, perché è costretta a rintuzzare le voci sempre più frequenti e numerose che indicano come si stia lavorando a uno scenario B, all'ipotesi ci stia preparando nell'eventualità di un fallimento della Grecia. In particolare la Germania è sotto tiro, la stampa tedesca ha riportato già un paio di giorni fa che il ministro delle Finanze Schäuble avrebbe dato incarico a un gruppo di esperti di preparare le contromisure nel caso appunto di un fallimento. Grazie da Bruxelles Antonio Poglio Salimbeni. E come sentivamo, la Germania sotto pressione soprattutto per quanto riguarda questa ipotesi di un piano B per la Grecia, e proprio dalle parole di Salimbeni sentivamo le indiscrezioni della stampa del fine settimana su questa ipotesi che riguarderebbe a un'approvazione della Germania proprio per un'uscita della Grecia dall'euro. Ma di questa mattina sono le precisazioni del portavoce del Ministero dell'Economia tedesco Philipp Rose. Quello che ci interessa è la stabilità dell'euro, vogliamo che la Grecia rimanga nell'euro così. Intanto però sulla posizione della Germania, specialmente dopo le dimissioni avvenute venerdì scorso del rappresentante tedesco alla BCE Jürgen Stark, sentiamo il commento di Beda Romano, corrispondente proprio dalla Germania del Sole 24 Ore. Ma credo che la Germania sia in grandissima difficoltà. È evidente che le dimissioni di Stark hanno sorpreso una parte importante dell'establishment politico ed è in questo momento fonte di nervosismo, perché è utilizzato dalla parte più rigida dell'establishment tedesco, penso in particolare a una fetta dei liberali, a una fetta dei democristiani e direi anche a una fetta dei cristiano sociali bavaresi. Le dimissioni di Stark non potevano giungere in un momento peggiore, perché da settimane ormai il dibattito tedesco è tutto ruota intorno al futuro della Grecia, alla possibilità che la Grecia faccia fallimento, addirittura alla possibilità che la Grecia venga espulsa dall'Unione Monetaria. E oltretutto queste dimissioni arrivano a 2 settimane da un voto al Bundestag sul nuovo fondo di stabilità finanziaria che l'Unione Europea ha ratificato alla fine di luglio. Il problema a questo punto è capire quanto le dimissioni di Stark rafforzeranno l'ala più rigida dell'establishment politico tedesco, prima di tutto, e in secondo luogo bisognerà capire quanto le dimissioni di Stark intaccheranno il sentimento generale dell'opinione pubblica tedesca sulla credibilità della Banca Centrale Europea. Credo che se l'opinione pubblica tedesca perde fiducia nella BPE, avremo un serio problema tedesco, molto più serio di quello che abbiamo oggi. E chiudiamo questa lunga pagina dedicata alla situazione economica in Europa. Tiriamo il fiato, parliamo di calcio. Ieri finalmente, tra ieri e l'altro, ieri le partite di calcio della Serie A. Dario Ceccarelli, abbiamo visto un Milan interlocutorio, molta Juve e soprattutto un Inter che non è più la dominatrice degli ultimi anni, almeno. No, beh, a vedere quello che c'è, è successo ieri sera, no, perché il Palermo l'ha fatta un po' a fettine. Sembra un inizio studiato da un diabolico regista per scatenare subito polemiche da bar sport. 4 gol, anche se presi da una squadra pimpante come il Palermo, sono tanti. Colpisce la fragilità della difesa e non solo per il contestatissimo schieramento a 3 voluto da Gasperini, che ormai è già sulla graticola delle contestazioni. Colpisce anche così che da un lato si pretenda da una squadra rivisitata, rifatta, che immediatamente funzioni, ma colpisce anche l'ostinazione di certi allenatori come Gasperini di voler imporre moduli che non sono digeriti da una squadra che ha sempre giocato in un altro modo. Anche il fatto di, così, per esempio, non puntare su giocatori di talento come Schneider, che comunque all'Inter sono importanti. Io temo che vivrà a giorni due Gasperini, soprattutto perché per sopravvivere all'Inter bisogna avere delle pellacce come quella di Mourinho, che infatti all'Inter tutti rimpiangono perché lui mandava tutti al diavolo e sosteneva le sue idee fino in fondo. Chi sta mostrando di avercela una discreta pellaccia è Antonio Conte, perché la sua Juve per ora è partita col botto. Sì, la Juve fa gran festa, col Parma tutto è filato in liscio e poi ci sono questi assist bellissimi di Pirlo e si vede una mentalità che, grazie anche allo stadio nuovo, sembra rigenerata, vincente, più consapevole, diciamo, dello status di prima squadra che è la Juventus. Non è e poi, ecco, un'altra cosa piacevole per gli juventini è che sembra una vittoria d'altri tempi. 4 gol, non li vedevano da chissà quanto. E poi fa morale, fa punti. L'unica cosa è che bisogna essere un po' prudenti, perché anche con Del Neri e con Ferrara gli avvii furono così, non proprio col botto, ma andarono bene, per cui prudenza non guasta. 13:17 minuti, ben ritrovati, GR24, la seconda parte. Nella prima abbiamo parlato della situazione negativa sui mercati finanziari, borse in rosso per quanto riguarda l'Italia, asta di 11 miliardi e mezzo di botti, i rendimenti sono in forte rialzo. Il presidente del Consiglio Berlusconi dice: non credo che la manovra economica cambierà. Oggi il decreto approva alla Camera. L'Unione Europea intanto avverte i paesi in difficoltà: consolidare i risultati sui conti pubblici. All'Italia, se necessario, nuove misure di risparmio. Per quanto riguarda invece la Grecia, su Atene, dice Bruxelles, nessuna ipotesi di default. Adesso le altre notizie. A cominciare dall'apertura dell'anno scolastico, 7 milioni e 800 mila gli studenti che oggi sono tornati a scuola nella maggior parte delle regioni italiane, altri seguiranno nei prossimi giorni. Buoni ultimi, lunedì prossimo gli studenti di Abruzzo, Basilicata ed Emilia Romagna. Un ritorno a scuola tra le polemiche e le proteste, come accade spesso, soprattutto contro i tagli. Questa mattina si sono tenuti flash mob di fronte a molti istituti. Nel pomeriggio studenti e precari si ritroveranno di fronte al Ministero della Pubblica Istruzione, come ci racconta Dario Costantino della Federazione degli Studenti. Da un lato chiediamo più soldi per la scuola, per il sapere. Dall'altro lato noi non intendiamo rientrare sui binari che la Gemmini detta e sui binari che la destra di oggi sta dettando. Non vogliamo la scuola del merito ipocrita, ma vogliamo la scuola della crescita comune. Ma oggi inevitabilmente è anche il giorno di una festa per molti, il giorno in cui si ritrovano i compagni, si ritrova quel banco che poi tutti noi ricorderemo per tutta la vita, con un pizzico di nostalgia. 2 per 0, 0, c'era un gatto tutto nero, 2 per 1, 2, era grasso. Ed ecco, si ricomincia. Riapre i battenti la scuola italiana, almeno in molte regioni. Con sé porta problemi, tagli, polemiche, ma anche tanti ricordi. Cosa resta archiviato il periodo sui banchi scolastici? A chiederlo ci ha pensato la DOXA. Scopriamo così che quando i tempi di cartelle ai banchi della più tenera età sono ormai lontani, di quegli anni resta un sapore dolce. Per quasi tutti. Il 92% degli italiani dice di ricordare con grande soddisfazione il periodo delle elementari. Nella mente restano compagni di scuola, il gioco, le feste, il clima di allegria, racconta l'indagine. Ma in cima alla classifica dei bei ricordi c'è, per il 36%, il maestro, la maestra o, per i più giovani, gli insegnanti al plurale. Bei ricordi misti ad un pizzico di nostalgia. Quasi tutti, l'80%, pensano che l'insegnamento nella scuola elementare sia cambiato rispetto al passato. Non sono più come prima il modo di insegnare, secondo 4 su 10. In 2 su 10, il 22%, bocciano la passione degli insegnanti di oggi. Il 17%, le materie di studio. Anna Migliorati, Radio 24, Il Sole 24 Ore. E ora andiamo all'estero, iniziamo dal Kenya. Oltre un centinaio di persone sono morte nell'esplosione e nel successivo incendio di un oleodotto in una bidonville della capitale Nairobi, lo ha annunciato la polizia. Pensiamo che il numero dei morti sia superiore a 100, ha detto un responsabile proprio della polizia, precisando che la maggior parte delle persone sono morte carbonizzate. L'esplosione è avvenuta nella zona industriale di Lunga Lunga, che è circondata dalla bidonville di Sinai, densamente popolata. È salito ad almeno 2.600 il numero delle persone rimaste uccise in Siria, secondo l'ultimo bilancio fornito dalle Nazioni Unite. A parlare questa mattina è stato l'alto commissario dell'ONU per i rifugiati a Ginevra. Ha detto, stando a fonti attendibili sul posto, il numero delle persone uccise dallo scoppio delle proteste a metà marzo fino ad oggi ha raggiunto i 2.600. Nuovo sbarco di migranti in nottata a Lampedusa. 98 tunisini, tra i quali una donna, sono approdati all'1.40 di notte dopo essere stati soccorsi dalla Guardia di Finanza. Sabato erano giunti complessivamente 577 magrebini, altri 36 erano sbarcati a Linosa. Nel centro di prima accoglienza di Lampedusa a questo punto si trovano di nuovo circa 1.200 immigrati. Abbiamo parlato a lungo della situazione sui mercati finanziari e anche della crisi dei debiti sovrani in Europa e anche della manovra economica che oggi approda alla Camera. Ci sono però dei dati che riguardano la produzione industriale italiana. A luglio è scesa dello 0,7% rispetto a giugno, con una diminuzione su base annua dell'1,6%, ed è il primo calo tendenziale dal dicembre del 2009. Calo a doppia cifra per il settore di produzione degli autoveicoli, meno 16,3%, un crollo addirittura per il tessile e l'abbigliamento, meno 20%. E ora un'avvertenza che viene da Brandate, in provincia di Novara, e riguarda un gruppo di lavoratori, quasi tutti immigrati. Sentiamo. Sono quasi tutti lavoratori immigrati, pakistani, indiani, filippini e africani. 200 di loro su 1.200 stranieri impiegati dal consorzio Safra dell'Esselunga di Biandrate nel Novarese, dopo 2 giorni di sciopero, hanno tenuto un incontro con il presidente della cooperativa. Una inedita protesta organizzata, iniziata 10 giorni fa, contro le trattenute in busta paga di alcune centinaia di euro operate dalle cooperative contro i ritmi di lavoro. I lavoratori avevano chiesto invece gli arretrati 2008-2009 per i premi di produttività, gli straordinari, i turni e il lavoro notturno. Corrado delle Donne, sindacalista dello SLAI Cobas, che ha seguito i lavoratori. Questi lavoratori hanno subito ottenuto che la cooperativa ha restituito 600 euro con un assegno che erano stati trattenuti i lavoratori. Però questi lavoratori hanno posto i problemi delle loro condizioni di lavoro in generale. C'è però ancora attesa, come spiega uno dei lavoratori, Mohamed Zia, pakistano. Loro ancora parlano di dovere, noi abbiamo spiegato che noi non parliamo di dovere, ma noi lo facciamo con le mani di dovere. Però voi adesso dovete parlare di diritti. Anna Marino, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Ora parliamo di energie rinnovabili, perché l'Italia potrebbe essere il primo paese dell'Unione Europea a realizzare la piena competitività del fotovoltaico, con le altre fonti di generazione di energia. È quanto emerge da uno studio realizzato dalla European Photovoltaic Industry Association sui 5 maggiori mercati del fotovoltaico nell'Unione Europea. Sentiamo. Crescita tecnologica e riduzione progressiva dei costi di produzione per raggiungere nel 2020 la cosiddetta grid parity, cioè l'equilibrio dei costi tra un kilowatt estratto dal petrolio e uno dal sole. Il tutto con un'Italia messa in ottima posizione anche rispetto alla concorrenza europea. A dirlo, nel suo rapporto sulla competitività nel settore del fotovoltaico, il presidente dell'EPIA, Ingmar Wilhelm, ingegnere tedesco di lunga esperienza italiana. Presentando lo studio, Wilhelm ha spiegato che già oggi l'elettricità solare è più conveniente di quanto non si pensi e il costo potrà essere dimezzato entro la fine del decennio. L'Italia ha tutto per guidare l'Europa, con un primo obiettivo di parità fissato già per il 2013, un primato che può essere raggiunto se prosegue lo sviluppo tecnologico avviato dalle grandi aziende del comparto e nel frattempo viene promossa una maggiore concorrenza. Allo stato attuale l'industria del fotovoltaico dipende ancora dal sostegno governativo, dagli aiuti di Stato, ma grazie allo sviluppo tecnologico sarà in grado di contare sempre meno su sistemi di incentivazione a fondo perduto. Gigi Donelli, Radio 24, Sole 24 Ore. Però caso di cronaca che sta facendo molto discutere, interrogatorio di garanzia oggi da parte del GIP per Soter Mule, ingegnere romano di 42 anni arrestato dopo la morte di una studentessa di 23 legata con una corda assieme ad un'altra ragazza 24enne che ora si trova in gravi condizioni con la tecnica erotica giapponese dello shibari. Mule è accusato di omicidio pretere intenzionale. La procura ha mitigato l'accusa per l'ingegnere, in un primo momento accusato di omicidio volontario. La decisione è stata presa in considerazione del fatto che le due ragazze avevano preso parte al gioco erotico volontariamente ed erano consenzienti. E sulle pratiche in Italia del sesso estremo, il commento di Gianluca Nicoletti. L'Italia si è scoperta praticante del sesso estremo da quando l'Italia si è affacciata al social networking, cioè da quando in Italia noi siamo diventati i primi grandi fruitori di Facebook e di tutti gli apparati di rete correlati, improvvisamente abbiamo cominciato a scambiarci tutte le fantasie più riposte, tra le quali c'è probabilmente in gran parte anche quella di farsi legare. Il bondage, che questa pratica erotica che prevede uno schiavo e un padrone, l'uno che si faccia legare, l'altro che lo leghi, giocato sul rapporto fra costrittore e costretto, sembrava qualcosa che appartenesse soltanto a alcune aristocrazie di pensiero, alcune depravazioni che soltanto una raffinatissima sensibilità possa avere. No, invece è diffusissimo, in Italia esistono centinaia di scuole di bondage, lo praticano persone dall'apparenza normalissime, solo che adesso attraverso la rete, purtroppo attraverso un tragico evento, se ne è accorti tutti che c'è un'Italia del desiderio nascosto che sta diventando superficialmente avvertibile grazie alla rete. Ed è tutto per questa edizione del Giornale Radio, vi lasciamo all'Italia in controluce, da Alessio Maurizio in studio, Roberto Scaltritti in regia, l'augurio di una buona giornata. GR24, Il Sole 24 Ore. Direttore Fabio Tamburini.